Sura dello Alaq, capitolo 96esimo del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 19 ayat. Gli ayat sono 19 e quelle da 1 a 5 sono la prima rivelazione coranica, scesa nella notte del destino nell'anno 13 prima dell'Egira. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, recita nel nome del tuo Signore che creò. Egli creò l'uomo da un alaq. Recita, il tuo Signore è il più generoso, il quale insegnò l'uso della penna, insegnò all'uomo ciò che l'uomo non avrebbe mai potuto sapere, niente affatto. In verità l'uomo è ribelle, poiché crede se stesso indipendente. In verità, al tuo Signore è il ritorno di ogni cosa. Che ne dici tu dell'individuo che ostacola un servo quando prega? Trovi forse che egli sia sulla via giusta o che ordini il timore di Allah? Hai tu notato se egli lancia accuse di falsità o se gira le spalle? Non lo sa egli che Allah vede? Niente affatto. Se non la smette, noi lo afferreremo per il ciuffo. Un ciuffo bugiardo e peccatore. Chiami pure a raccolta la sua banda. Noi chiameremo a raccolta Azzabaniya. Niente affatto. Tu non dargli ascolto, prosternati invece ed avvicinati.